Ed eccoci qui con un nuovo episodio di Alla Conquista del Gioco, il podcast italiano sui giochi da tavola trasmesso su radiobigworld.com. Siamo qui come tutte le settimane, Pietro e... Claudio. Ecco, Quello è il mio nome. devi introdurti da solo, devo introdurti Di solito è così. io. Va bene, Pietro e Claudio di Area Games Forlì, l'associazione ludica gratuita forlivese. Siamo qui con questo episodio che si avvicina al Natale e per una volta trasmettiamo alla luce del sole, perché di solito trasmettiamo di sera, invece oggi grazie, registriamo, non trasmettiamo, oggi grazie alle festività riusciamo a registrare con la luce, riposati e al 100% delle energie. Quindi siamo pronti ad iniziare. Claudio, introduci il tuo primo gioco di oggi. Okay, dopo essere stati trattati verbalmente come rettili perché abbiamo bisogno della luce del sole, ma tralasciamo. O come le piante. Ci state ascoltando di lunedì 12, ci state ascoltando di lunedì 12, quindi mancano solo 13 giorni a Natale. E quindi teoricamente dovremmo parlare, non giocare, di giochi di tema natalizi. Ma non sarà così, perché come avete ben imparato dagli ultimi episodi, andiamo più su giochi che ci ispirano il giorno stesso, così da parlare, quindi parleremo di giochi un po' di tutte le tipologie, almeno per il mio caso. Inizierò con un gioco molto semplice e veloce, quindi non ci vorrà neanche molto nel parlarne. È un gioco del 2011, distribuito dalla Blue Orange Games, quindi dall'arancia blu, e creato dallo stesso autore del famoso gioco Love Letter, il buon Seiji Kanai. Si Oh. tratta di Brave Rats, un gioco del 2011, un gioco che si assomiglia molto per Love Letter, soprattutto se si va a vedere che prima di essere Brave Rats, questo gioco era un altro gioco chiamato R, che è la stessa identica cosa, ma con un'ambientazione completamente diversa. Quindi in pratica il gioco precedente era una sorta di prototipo, che incanala le stesse identiche regole di questo. L'unica differenza è l'ambientazione. È un gioco che prende massimo 10 minuti, quindi probabilmente va giocato più tante partite in una volta, ed è un gioco da due giocatori. Ha un prezzo molto economico, la scatola è molto piccola, in latta, molto bella quella di Brave Rust, perché parliamo di Brave Rust e non del suo predecessore stasera. E andiamo a vedere come funziona. Allora, il gioco riprende due clan di ratti in stile scozzese, quindi sono due clan scozzesi di ratti che si contendono ovviamente per il trono, diciamo. Quindi ognuno dei due clan ha vari personaggi che cercano di aiutare il principe del proprio clan. Ognuno dei due giocatori quindi avrà un mazzo di carte che è uguale identico a quello dell'altro giocatore, cambiano solo le immagini e i colori. Quindi avremo giocatore rosso e giocatore blu, ognuno con rispettivo clan, ma con gli stessi identici ruoli, dei quali cambiano solo le figure perché sono personaggi diversi, ma con lo stesso impiego. Avremo quindi un mazzo di carte di personaggi dal valore da 1 a 8, dove ogni personaggio con un valore ha anche un potere differente. Il gioco base ci permette di avere in mano tutte le 8 carte e di giocare a turno quella che vogliamo noi, ma la carta che noi giocheremo non sarà più poi disponibile. Quindi è un gioco dove bisogna selezionare il ruolo e giocarlo in contemporanea all'altro giocatore. Quindi entrambi scegliamo una carta dalla nostra mano, consapevoli che al primo turno l'altro giocatore ha le stesse carte in mano che ho io. Poi andando avanti ne avrà sempre di meno e sappiamo già quale ha già usato. Entrambi giochiamo una carta coperta, le riveliamo e vediamo chi avrà vinto il round. L'obiettivo del gioco è vincere 4 mani. Ogni volta che due carte si rivelano, uno dei due giocatori teoricamente dovrebbe vincere il round, fatta eccezione per certi poteri. Di base vince la carta con il numero più alto, però ogni carta ha anche un potere sotto che potrebbe cambiare le regole di gioco. Facciamo un esempio. La carta numero 8, la più potente, è il principe. Il principe dice: se tu hai giocato il principe, hai vinto il round. Tuttavia, se due giocatori giocano la stessa carta, si attiva il pareggio, cioè le due carte che sono scontrate vengono messe da parte, si fa un nuovo round con delle altre carte selezionate e chi vince il prossimo round ha vinto anche il round precedente che è rimasto in sospeso. Il principe vince tutti i turni, tutte le mani, però di contro, volendo, c'è anche la carta numero 1 che è la principessa, che il suo effetto è: quando tu hai giocato la principessa, se l'avversario ha giocato il principe, tu hai vinto la partita. Non hai bisogno di vincere i 4 round, hai vinto direttamente. Quindi tu puoi anche giocare sulla base di: ha giocato già queste 6 carte qui, il principe è ancora in mano, io ho ancora la principessa. Se questo turno gioca il principe, io gioco la principessa, potrei aver vinto direttamente, quando magari l'avversario ha già vinto 3 round su 4. Poi ci sono altre carte più particolari. Per esempio c'è l'assassino, che è il numero 3, che dice che questo round lo vince il numero più basso. E lui, essendo il numero 3, ha molte più probabilità di vincere, considerando che abbiamo numeri da 1 a 8. Oppure c'è l'ambasciatore, che è il numero 4, che dice: se tu vinci il round con questa carta, questa vittoria ti vale come 2 vittorie su 4. E quindi è un giochino di intesa, ma anche di lettura dell'avversario, semplicissimo. Durerà intorno ai 10 minuti. Ha una 6-7 variabili comprese nel regolamento, che semplicemente cambiano come vengono giocate le carte o come vengono selezionate all'inizio della partita. Facciamo un esempio: si può giocare una variabile dove un giocatore ha 2 principesse e l'altro giocatore ha 2 principi, il che rende a un giocatore più facile vincere 2 round, però di conseguenza potrebbe anche rischiare di perdere la partita 2 volte perché ci sono 2 principesse dall'altro lato. E questo è Brave Rust, regolamento semplicissimo, un gioco che in media durerà intorno ai 10 minuti, molto economico, la grafica è veramente bella, la scatola ancora di più, soprattutto perché il coperchio rappresenta il clan blu, e mentre la parte sotto della scatola è il clan rosso, e quindi tu hai questa scatola di lata che è mezza rossa e mezza blu, con le classiche righe da kilt scozzesi. Questo però è solo l'edizione francese della Blue Orange, che è quella che è uscita nel 2011, mi pare. No, sì, forse è uscita nel 2006, perché ne sono uscite varie versioni. L'ultima versione, quella del 2016, è della Pegasus, sì, e come tutti i giochi della Pegasus ha la scatola di cartone col bordo giallo, come un classico. Esattamente. Mentre il gioco originale R è lo stesso identico gioco, ma con delle figure umane, quindi sono veramente un principe, un generale, un assassino. E quindi può assomigliare molto di più a Love Letter, anche perché Love Letter ha quella stessa identica ambientazione, sì, che non è mista degli animali antropomorfi. Effettivamente il cambio di ambientazione è stato favorevole, perché era solo un gioco come tanti, sembrava, d'aspetto l'altro. Bene. Ok. Certo che è un autore di giochi che ha fatto la sua fortuna su queste meccaniche basate su giochi piccoli con poche carte e da due, e cioè non è detto che da due, ma da pochi giocatori. Sì, sono quei giochi di intesa, chiamiamoli, cioè devi riuscire a capire, sì, che carta verrà giocata, e tu sai che sono veramente pochi i numeri di carte, quindi devi anche calcolare bene, devi contare anche cosa è stato giocato. Sì, esatto, giochi di contromosse quasi. Sicuramente la sua fortuna l'ha fatta con Love Letter, perché adesso è pieno di versioni di Love Letter attaccate a brand famosi come Adventure Time, Lo Hobbit, Batman. Però a quanto pare è rimasto molto attivo e continua a produrre giochini di carte. Un autore che sicuramente ha dello sbuzzo, come si dice da noi, dalle nostre parti. Esatto. Ok. Tutto puoi qui? Ok, perfetto. Va bene, quindi, visto che hai finito con Brave Rats, ovvero appunto l'edizione, la nuova edizione del gioco che originalmente era conosciuto come WR, tocca a me, e io porterò, come la settimana scorsa, il gioco che ho giocato il venerdì sera all'associazione all'Area Games, perché il regolamento l'ho più fresco in mente visto che l'ho appena giocato, e anche perché è un gioco che sicuramente merita tantissimo, è fondamentale, è uno dei più bei cooperativi che ci sono, e l'avevo anche promesso nell'episodio scorso che ne avrei parlato. Ed eccoci qui con Battlestar Galactica di Cory Konietzka, o come si pronuncia. Allora, innanzitutto c'è da dire che questo gioco è del 2008. In quel periodo Il mondo dei giochi da tavola era all'inizio del boom. Da attorno al 2004 è esploso veramente il mondo dei giochi da tavola e i brand hanno iniziato a investire veramente in questo settore. Col Signore degli Anelli, i primi tentativi di portare in tutto il mondo come visibilità il Trono di Spade così, e anche i vari videogiochi come World of Warcraft. Prima di allora, i telefilm nel mondo dei giochi da tavola, o anche i cartoni animati, o anche i film, diciamo che non avevano avuto grandi esponenti, perché solitamente si facevano meccaniche semplici, perché tanto il gioco vendeva per la potenza del brand. Ad esempio, un esempio che mi viene in mente sono il gioco da tavola di Jumanji o il gioco da tavola di Buffy, The Vampire Slayer, che sono ridicoli, cioè sono dei giochi dell'oca quasi, o dei Cluedo. Ah, tipo ricordiamo anche, vi ricordo c'era anche il gioco di Hai paura del buio? Sì, o di Piccoli Brividi, che sono giochi, appunto, o anche il gioco di Jurassic Park, molto vecchio, sono giochi fatti innanzitutto per dei bambini, o comunque per giovani adolescenti, che comprano il gioco per la potenza del brand e la sua esposizione, non perché la meccanica è qualcosa di incredibile. Con Isca è uno dei primi che ha cambiato le cose. Infatti, dopo il suo gioco di StarCraft e il Trono di Spade, se non sbaglio, gli è stato affidato appunto lo sviluppo del gioco da tavolo del telefilm Battlestar Galactica, che è del 2004. Nel 2008 era già a stagioni avanzate, quindi c'era già molto materiale su cui lavorare, e ha creato un giocone. Cioè, non è un gioco che vende perché il brand è forte, è un giocone in cui, se tu segui la serie, veramente ritrovi gli elementi della serie. Infatti, tra l'altro, su Board Game Geek esiste anche la classifica dei giochi più ambientati e Battlestar Galactica si difende molto bene, essendo dodicesimo se non sbaglio, anche se quelli prima di lui, diciamo, sono abbastanza forzati, secondo me. Ad esempio, il primo è Pandemic Legacy e vabbè, lasciamo perdere. Per quanto può essere ambientato Pandemic Legacy. Comunque, tornando a Battlestar Galactica, quindi parliamo di un gioco che è stato innanzitutto proposto per essere un gioco che vende per la forza del brand, e in realtà è un gran gioco, anche se fosse un qualsiasi altro, se fosse senza Battlestar Galactica e fosse Stellar qualcosa, Stellar Treachery, Tradimenti Stellari o qualcosa di simile, il gioco sarebbe comunque un gioco fortissimo. E adesso andiamo a analizzare questo cooperativo contraddittore. Allora, in Battlestar Galactica, facciamo un piccolo rapido, come dire, tutorial sulla serie. Ci troviamo in un futuro in cui i terrestri sono usciti da una guerra durata anni con i Siloni, che sono questa razza artificiale costruita dai terrestri che si è ribellata e ha cercato di estinguere la razza umana. Dopo questa guerra, per 40 anni c'è stata la pace. I Siloni sono tornati sul loro pianeta, isolandosi dai terrestri. Nonostante vari tentativi di ambascerie, i Siloni non hanno mai risposto. Dopo 40 anni, i Siloni rispondono e rispondono male. Diciamo che l'umanità si ritrova ad aver perso le colonie e a viaggiare su queste astronavi giganti. Una di queste è il Battlestar Galactica, che è un'antica nave da guerra della guerra dei 40 anni precedenti, quindi è una nave anche obsoleta. Quindi in questo Battlestar Galactica vive un'enorme comunità di umani, soltanto che i Siloni hanno sviluppato una nuova tecnologia. Mentre i Siloni originali, i Centurioni, sono proprio degli esoscheletri robotici, esiste una nuova razza di Silone che è praticamente identica agli umani. È quasi, se, senza test scientifici, è impossibile capire che non sono umani. Quindi, Battlestar Galactica, il gioco da tavola, si basa su questo concetto che tra i giocatori ci sono dei Siloni nascosti che vogliono sabotare la nave e farci perdere. Allora, Lo scopo dei giocatori è arrivare a Kobol, questo pianeta dove potranno insediare la nuova civiltà umana. Per arrivare a Kobol dovranno percorrere una certa distanza nello spazio. Per compiere questa distanza faranno vari salti. E questi salti iperspaziali, che sono presentissimi nella serie, sono il sistema con cui gli umani riescono a fuggire dai siloni, praticamente. Forzano la nave per compiere questo salto che li teletrasporta da una parte della galassia a un'altra. Solo che appunto forzare il salto provoca danni alla nave e a chi c'è dentro. Quindi lo scopo degli umani per vincere è semplicemente, ed è l'unico modo che hanno, almeno nel gioco base, compiere un tot di salti per raggiungere Kobol. Devono compiere, per nello specifico, 8 distanze e fare un ennesimo salto. Il numero di distanze che ogni salto fa varia dalle carte pescate che vedremo dopo dei viaggi e che verranno scelte dall'ammiraglio. Mentre come perdono gli umani? Ecco, qui ci sono già più metodi di sconfitta. Allora, innanzitutto, se 6 settori del Galattica sono danneggiati, gli umani hanno perso. Poi, se una delle risorse del Galattica va a zero, gli umani hanno perso. E poi, se non mi ricordo male, c'era anche un altro modo, ma in questo momento non mi soggiunge. Quindi proseguiamo e magari mi verrà in mente. Quindi passiamo alle risorse. Gli umani hanno, il Galattica ha quattro ruote che indicano le risorse dell'astronave. Queste ruote possono salire o scendere. Quando arrivano a metà arrivano a livello critico e quando arrivano anche solo una di loro arriva a zero, gli umani hanno perso. Sono la ruota della popolazione, del carburante, dell'acqua, cibo e della morale. Poi, i membri dell'equipaggio, che sono i personaggi principali del telefilm, sono divisi per categorie. Ci sono quelli pilota, quelli politici, quelli ingegneri, diciamo, e quelli di supporto che sono un po' duttili e sanno fare un po' di tutto. Questa divisione cambierà le carte che possono prendere e anche i ruoli che possono ottenere all'interno della nave. Perché all'interno dell'equipaggio potrebbero passare due ruoli principali che sono il governatore e l'ammiraglio. Il governatore è ormai l'ultima carica politica della razza umana e si trova nel Colonial One, che è una nave, diciamo, di supporto che segue il Galattica e che nella plancia è rappresentata come uno spazio più piccolo con vari ambienti. Mentre l'ammiraglio è appunto il comandante della flotta che comanda il Galattica e prenderà decisioni che riguardano il viaggio. Questi ruoli possono cambiare principalmente se il giocatore che detiene il ruolo a un certo punto della partita svela di essere un silone, a quel punto perde il ruolo perché passa nell'altra fazione. Altrimenti, il titolo di presidente può essere rubato con una presa di mano attraverso una stanza del gioco, il titolo di ammiraglio no, invece. E a inizio partita vengono assegnati in base all'importanza, diciamo, che il personaggio ha per quel ruolo nel telefilm. Ad esempio, se verrà scelto dai giocatori inizio partita il personaggio che nel telefilm è l'ammiraglio, ovvero Adamo, quel giocatore sarà l'ammiraglio di base. Se nessuno sceglie Adamo, sarà il secondo, ovvero Saul Teague, e così via. Quindi c'è una graduatoria a seconda dei ruoli scelti per chi inizia con quel titolo. Un'altra meccanica, appunto, è quella della scelta dei ruoli. Per fare in modo che l'equipaggio sia omogeneo, sia più che omogeneo, sia ben bilanciato, il primo giocatore che verrà determinato a caso potrà scegliere il personaggio che vuole. Dal secondo giocatore, invece, potrà scegliere solo i personaggi che hanno rimasto più esponenti della loro categoria da scegliere. Quindi, se ad esempio ci sono due personaggi, politici, ingegneria e pilotaggio. Se il primo giocatore sceglie un politico, il secondo non potrà scegliere il politico perché sia ingegneria che pilotaggio ne hanno rimasti più a disposizione. Quindi fino al quarto giocatore, quelli che hanno rimasto un solo esponente nel deck di scelta non potranno essere presi, tranne i personaggi di supporto che non contano in questo limite in quanto sono più versatili, possono prendere un po' tutte le carte e fare più cose. I personaggi di supporto possono essere scelti in qualsiasi momento. Ok, vediamo come funziona un turno di gioco. Allora, di base, noi avremo a inizio partita il Galattica, che è questa astronave disegnata nella plancia, con i vari spazi che la compongono e che possono fare diverse azioni se attivati. Poi partirà con un'astronave Silone davanti, un'astronave madre che spara delle navi da caccia, alcuni caccia. Poi avremo alcuni Viper degli umani, le nostre navi di difesa, e dietro al Galattica due navi civili da difendere. Tutto questo spazio è diviso da linee che determinano la capacità di movimento sia delle navi umane che delle navi Siloni. Il Galattica sarà sempre fermo e tutte le altre navi ruoteranno attorno a lui. Dopodiché il turno di gioco funziona in questo modo. Ci sono diversi mazzi di pesca, ognuno legato a un'abilità, cioè il mazzo di politica, il mazzo di pilotaggio, e il mazzo di ingegneria, di meccanica e così via. I nostri personaggi saranno specializzati, ad esempio un personaggio esperto in pilotaggio potrebbe avere pilotaggio e politica come esperienze. Nella sua scheda c'è scritto quante carte a inizio turno di quel tipo pesca. Quindi le carte che peschiamo a inizio turno sono scritte nella nostra scheda, sia il numero che il colore. A quel punto, una volta pescate le carte, abbiamo un movimento che può essere nella nave in cui ci troviamo, quindi o nel Galattica o nel Colonial One, in qualsiasi punto della nave stessa. Cioè, non c'è una distanza. Per dire, un movimento non vuol dire che dobbiamo per forza andare nella stanza adiacente a quella ci troviamo. Nella stessa nave tutte le stanze contano come adiacenti. Se invece vogliamo saltare da una nave all'altra, dobbiamo anche scartare una carta. Quindi possiamo cambiare nave quando vogliamo nella fase di movimento, ma scartando una carta. Invece, se stiamo pilotando un Viper e nel gioco base solo 4 personaggi sanno pilotare i Viper, possiamo muoverci di uno spazio, come dire, spazio spaziale, in uno spazio attorno al Galattica, oppure possiamo saltare sul Colonial One o sul Galattica scartando una carta come prima. Dopo il movimento c'è la fase delle azioni, i personaggi possono fare una e un'unica azione. L'azione può essere l'azione scritta sulla carta del personaggio, sulla scheda del personaggio, l'azione scritta su una delle carte che abbiamo in mano, oppure l'azione dello spazio in cui ci troviamo, ad esempio l'armeria del Galattica, può sparare, può utilizzare i Viper non controllati dai giocatori, quelli neutrali, per muoverli o sparare. Oppure possiamo utilizzare un Viper se lo stiamo pilotando e così via. Quindi una sola azione, ma la scelta è molto ampia. E dopodiché c'è la fase della crisi. Il giocatore di turno pesca una carta crisi. Le carte crisi sono di due tipi: possono esserci crisi da risolvere oppure imboscate dei siloni. Se esce un'imboscata, seguiamo quello che c'è scritto sulla carta. Principalmente lo spazio attorno alla Galattica cambia perché arrivano nuove navi nemiche e quindi dobbiamo semplicemente creare il nuovo schieramento del nemico. Poi attivare tutti i Viper, nemici e così via, come comunque è scritto nella carta. Se invece viene una crisi, la crisi rappresenta un evento successo nella storia del telefilm, cioè con immagine e descrizione, e richiede che venga superato un numero di difficoltà. Utilizzando soltanto certe abilità, ad esempio può uscire una crisi di difficoltà 14 basata su politica e ingegneria. Quindi i giocatori dovranno segretamente mettere quante carte vogliono in un mazzo per risolvere questa crisi. Quindi i giocatori mettono tutte le carte che vogliono, 3, 1 o non partecipano, in un mazzo. che verrà risolto in seguito. Quindi i Siloni, in questo punto, che sono i traditori, giusto? Mi sono scordato di dire che a inizio partita verranno anche dati i ruoli e tra i giocatori molto probabilmente ci saranno dei traditori nascosti, metteranno le carte sbagliate. Poi, una volta che il mazzo è stato composto, c'è anche il mazzo del destino, ovvero per creare un po' di questa atmosfera di diffidenza all'interno del gruppo, viene creato a inizio partita questo mazzo che contiene due carte di ogni colore. E ogni volta che viene affrontata una crisi vengono prese due carte dal mazzo destino. Quindi, anche se magari alla creazione del mazzo per risolvere la crisi non ha partecipato un silone, ci sono due carte sbagliate perché sono state prese dal mazzo destino. E questo viene fatto appunto per creare questo fatto di diffidare degli altri giocatori, anche se per caso nessuno ha messo carte negative, tu puoi dubitare di qualcuno. A questo punto viene rivelato il mazzo, una volta che tutti hanno partecipato con tutte le carte che vogliono e sono state aggiunte due carte al mazzo destino, e tutte le carte che servivano sono valore positivo, mentre tutti i colori che non servivano allo superamento della crisi sono valori negativi. Quindi dobbiamo superare il numero facendo la sottrazione delle carte positive e negative, e se ce la facciamo o no, nella carta c'è scritto cosa succede. C'è scritto cosa può essere il risultato di successo e di fallimento. Solitamente il fallimento perdiamo dei valori nelle varie ruote delle risorse di Galattica. Certe volte però la crisi non è da risolvere obbligatoriamente con questo test, con questa raccolta di carte di gruppo, perché può esserci scritto oppure l'ammiraglio oppure il giocatore di turno decide di prendersi questo. Sostanzialmente, in alcune carte, invece che affrontare la crisi, cioè, il giocatore di turno, l'ammiraglio, può decidere di beccarsi un danno minore, tipo perdi un cibo, ma non dover fare questo test, invece che rischiare di fallire e perdere due cibo, per dire. Ok, poi, alla fine delle carte crisi, c'è un'ultima cosa da dire. In basso a sinistra c'è l'attivazione dei siloni. Si è disegnata un'icona che indica quali unità dei siloni attaccano o si muovono. Possono esserci i caccia dei siloni, i raider se non sbaglio, oppure possono esserci gli heavy raider che sono i trasporti dei siloni che portano i siloni sulla nostra astronave, sul Galattica, e cercheranno di entrare nell'hangar, e così mi sono ricordato l'altro metodo di sconfitta. Ovvero se i siloni prendono il Battlestar Galactica, perché gli Heavy Raider punteranno a sganciare fanteria dentro alla nave, e a questo punto ci sarà un contatore. Ogni volta che uscirà il simbolo Heavy Raider, questi fanti che sono entrati avanzeranno, e quando arrivano in fondo hanno preso possesso del Galactica e abbiamo perso. Per poter contrastare questa cosa, i giocatori dovranno utilizzare lo spazio armeria. Oppure può esserci l'attivazione di un'astronave madre per sganciare nuovi raider, o l'attivazione di un'astronave madre che spara a Galattica. E a questo punto può succedere, anzi è probabile che succeda, che ambienti del Galattica vengano danneggiati. Una cosa importante da dire: in questo gioco i giocatori non muoiono mai. Quando capita che prendono dei danni perché il loro raider è distrutto o erano in uno spazio che è stato distrutto, finiscono in infermeria. L'infermeria e le celle sono due spazi particolari. Quando un giocatore inizia il turno in infermeria, pesca una sola carta, a sua scelta tra quelle che può pescare. Invece, quando un giocatore si ritrova nella cella perché è stato sbattuto lì dagli altri giocatori, quel giocatore deve superare una prova per poter uscire. Finché non ci riesce, rimane lì. Questo è il turno normale di gioco. Ah, giusto, e un'altra cosa, in fondo alla carta crisi, dicevamo, in fondo a sinistra c'è l'attivazione dei siloni, mentre in fondo a destra può esserci il simbolo del salto. Se in una carta crisi c'è il simbolo del salto, l'indicatore di salto sale. Quando l'indicatore arriva a 4 o a 5, possiamo forzare il salto. Normalmente, per fare un salto naturale nel gioco e passare alla prossima area spaziale, ci vogliono 6 carte crisi che abbiano il simbolo del salto. Ma già quando l'indicatore è a 4, usando la stanza controllo FTL del Battlestar Galactica, possiamo forzare il salto. Il problema qual è? con il 4, forzando il salto, dobbiamo lanciare un D8 e a meno che non facciamo 7-8, se forziamo il salto a 4 perdiamo 2 popolazione, se forziamo il salto a 5 perdiamo 1 popolazione perché l'equipaggio non era preparato e ci sono stati vari incidenti dentro l'astronave. Quindi è molto rischioso, ma qual è il vantaggio del salto? Praticamente l'astronave, il Galattica cambia zona spaziale, tutti i siloni li lasciamo dietro, quindi se eravamo circondati da migliaia di navi siloni, queste qui vengono tolte dalla plancia perché in questa nuova area spaziale devono di nuovo ritrovarci. Questo però non vale per i centurioni che sono stati sganciati nel Galattica. Se i centurioni, i fanti dei siloni sono dentro la Galattica, loro ce li portiamo dietro e vanno debellati normalmente. Poi, altro da dire. L'ultima cosa, anzi direi da dire, poi ci siamo. Allora, una volta effettuato il salto, l'ammiraglio pesca due carte destinazione e sceglie quale di queste verrà affrontata. La carta destinazione indica quante distanze spaziali abbiamo percorso per arrivare fino a 8 e che danni ha subito il Galattica in questo viaggio, ad esempio pioggia di asteroidi, per dire. Ci ritroviamo lì, il Galattica subisce dei danni. Comunque, quasi praticamente sempre, ogni volta che viene fatto un salto, dei danni a seconda della destinazione vengono presi dalla Galattica. Più poi le distanze percorse, più sono le distanze percorse, tipo una destinazione da 3 o da 4, e più sono i danni. Infine abbiamo i traditori. Allora, i siloni possono giocare normalmente fino a un certo quanto vogliono. A un certo punto, se decidono di rivelarsi, però, hanno dei vantaggi nel sabotare l'equipaggio. Allora, un silone rivelato non si trova più nel Galattica e se aveva un titolo lo perde. A questo punto lui potrà stare soltanto negli ambienti silone, che è una parte della plancia in cui ci sono 4 o 5 ambienti in cui il silone può fare molti più danni agli altri giocatori. Durante il suo turno, il giocatore silone rivelato pesca una sola carta, ma del colore che vuole. Poi può muoversi in un ambiente silone e può attivare un ambiente silone o una carta super crisi. Le carte super crisi sono delle crisi di un altro tipo che non sono influenzate dalle carte dei giocatori, per questo si chiamano super crisi, perché i bonus che possono avere i giocatori sulle crisi non hanno effetto sulle super crisi. E che i giocatori siloni rivelati possono tenere in mano creandosi una mano pescando attraverso lo spazio New Caprica, se non sbaglio. Dopodiché il silone rivelato può fare soltanto queste cose: può pescare una carta, muoversi e attivare uno spazio silone, una carta. Possono ancora i siloni rivelati partecipare alla risoluzione di una crisi, ma mettendo massimo una carta. Quindi, diciamo, non vengono tirati fuori dal gioco, possono ancora sabotare le prove, ma hanno un massimale di carte da usare che è molto basso. Quindi, siccome pescano una carta e ne usano una, non sono poi tanto pericolosi da questo punto di vista. Direi che per il regolamento non c'è bisogno di andare sui dettagli, tipo limite di carte in mano, cose simili. Questo è Battlestar Galactica. Secondo me è un gioco fantastico. L'unico problema è si sente che è molto portato per essere un giocone e diciamo per chi è un entry level, ha iniziato da poco a giocare i giochi da tavola, è abbastanza complesso, non esageratamente, ma abbastanza complesso. Durata media di una partita. Il gioco dura un'oretta e mezza, anche un'ora se i giocatori perdono in fretta, ma la spiegazione è molto lunga. La spiegazione dura anche mezz'ora se non di più, e può essere anche abbastanza ostica. C'è da dire che il regolamento dell'ultima edizione Giochi Uniti è spiegato benissimo e ordinato benissimo. Seguendo il regolamento della nuova edizione, la spiegazione sarà fluidissima. Sono stati molto bravi. Tranne nella fase agente dormiente, che è una cosa che non ho spiegato, che non si capisce bene leggendo il regolamento. Praticamente a metà partita, quando i giocatori hanno fatto quattro distanze spaziali, viene fatta questa fase che si chiama Gente Dormiente, in cui le carte affiliazione, quindi sei un silone o non sei un silone, che a inizio partita non sono state assegnate ai giocatori, vengono assegnate ai giocatori. Quindi un giocatore che prima non era un silone può diventare un silone a metà partita. Ho capito. In più c'è un'altra carta che è il simpatizzante. Il simpatizzante diventa silone soltanto se i giocatori stanno andando molto bene e nessuna ruota è a livello critico delle risorse. Se invece almeno una ruota è già a livello critico, quel giocatore simpatizzante viene solo messo in prigione come umano un po' strano, ma non diventa un silone. Quindi c'è anche questo giocatore che può diventare silone soltanto se la partita sta andando troppo bene. Dicevo, le nuove edizioni dei giochi uniti, perché in Italia in realtà il gioco uscì già molti anni fa per l'editrice giochi, sia il gioco base che la prima espansione Pegasus. Dopodiché la giochi uniti, attorno al 2012, se non sbaglio, ha fatto riuscire il gioco e le tre espansioni successive, ovvero Pegasus, Daybreak e Exodus, anzi prima Exodus e poi Daybreak che è l'ultima. Purtroppo non ho ancora giocato alle espansioni perché mi piacerebbe molto. Ne ho due, mi manca la prima Pegasus. Se appena le proverò, potrò anche dedicare una puntata a queste. Il costo del gioco è altino perché Battlestar Galactica costa 40 € e ogni espansione costa dai 30 ai 40 €. Quindi diciamo che il gioco con tutte le espansioni siamo attorno ai 150 €. Ah, vabbè, con l'espansione. Con le espansioni, ok, dai. Dice, e Saranno poi 50 euro l'uno. inoltre il gioco base tiene fino a 6, da 3 a 6 giocatori, quindi anche il minimo di giocatori è 3, ma la partita a 3 non rende, bisogna giocare almeno a 4. Ma di E solito molti cooperativi tre non rendono. no, infatti, poi soprattutto con la meccanica del traditore, che senso ha? Che uno è un traditore e due no? Cioè, è troppo riduttiva la cosa. Però già dalla prima espansione il numero di giocatori si allarga fino a 7, quindi diventa da 3 a 7 giocatori. Bene, questa era Battlestar Galactica. Mi scuso per essermi dilungato tanto, ma è veramente un gioco che richiede di parlarne molto. L'hai già detto che la spiegazione durava mezz'ora, la tua mezz'ora l'hai presa, quindi non vedo cosa sia di male. Ok, Bene. avanti, Claudio. Allora, tu sei a posto così, dopo hai altri titoli. No, basta, non ce la faccio più. Allora facciamo l'ultimo. Facciamo un gioco di quelli un po' più scemi. Un gioco che è uscito quest'anno. Un gioco che noi chiamiamo Chariot Race, ma che può anche essere Chariot chiamato Das Race. Grobe Wargerennen, ma che può anche essere chiamato The Great Chariot Race. Ma in ogni caso è una corsa di bighe, quindi è, diciamo che è un simile a V Caesar, se vogliamo ricordarlo. Però, se vogliamo parlare in modo migliore, è la versione un po' più scema di AV Caesar, cioè un po' più data alla fortuna. Dove AV Caesar si giocava comunque con una mano di carte, quindi c'era una selezione. In Chariot Race abbiamo sì, ogni giocatore ha sì una sua biga con delle caratteristiche, però si tratta più che altro di giocare con dei dadi, quindi c'è tutto il fattore fortuna in realtà. È un gioco che dura mezz'ora, il numero di giocatori è fino a 6, minimo, vediamo un po', da 2 a 6 giocatori, io l'ho giocato in 4 e 5, ed è molto semplice, abbiamo una plancia che è formata da due pezzi di corrida fatti a mo' di puzzle, chiamiamola così, due pezzi di, come si dice, dai, dove correvano le bighe. Pronto? Scusami. Nell'anfiteatro. Dov'è che correvano le bighe? Come si chiamano? Ecco, abbiamo due pezzi di anfiteatro in plancia da attaccare come puzzle e O abbiamo degli circo, anzi, standees. forse circo è più corretto. Ok, e abbiamo gli standees del nostro colore, quindi che sono praticamente i personaggini che stanno muovendo la biga. E in più ogni giocatore ha a disposizione una tessera che cambia dal colore di giocatore. Può avere due tipologie, c'è cioè la tessera base che è uguale per tutti i giocatori, dove abbiamo 12 di vita, 12 di movimento e 6 di fortuna. Mentre se giriamo alla tessera, a seconda del colore che abbiamo scelto, le caratteristiche sono diverse, quindi ogni giocatore giocherà in modo diverso. E in più ogni giocatore avrà un token delfino che fa vedere a che punto della gara sei arrivato. Ultima cosa che possiamo avere in componentistica sono delle stravaganti frecce di plastica nere che vanno attaccate per far vedere come sei messo in quella statistica, quindi se stai avanzando o se ti stai abbassando. Le usi come indicatore. Si determinano casualmente chi è il primo giocatore di turno, i giocatori vengono messi a disposizione in un certo ordine davanti al traguardo, quando ci sono delle frecce nel casello in cui devono partire, e il giocatore che inizia inizierà, se giochiamo una partita base, con 3 punti fortuna su 6, il massimo della vita e 4 in movimento. Ora, andando ad analizzare la scheda del giocatore, vedremo che nella tabella che rappresenta la vita e il movimento, in mezzo a queste due statistiche abbiamo una linea con disegnati dei dadi ed è divisa in vari settori. Mi spiego meglio. Tra lo 0 e il 5, sia in movimento che vita, abbiamo 5 dadi. Tra il 6 e il 7 ne abbiamo 4, tra l'8 e 9 3 e così via fino ad arrivare a un dado solo. Queste sono le azioni che abbiamo a disposizione a seconda di quanta resistenza è rimasta il nostro carro o di quanto veloce sta andando. Quindi più lenti andiamo, più dadi tiriamo. Più veloci andiamo, meno ne tiriamo, ma anche più siamo feriti, meno ne tiriamo. Perché se un carro ha, facciamo esempio, 5 di vita, non potrà superare il 5 di movimento. Perché sta traballando. Quindi a seconda di quante ferite abbiamo subito, il carro andrà più lento anche. Però avremo a disposizione più dadi. Quindi, all'inizio del turno di un giocatore, la prima azione che si può fare è spendere 3 punti fortuna, e solo 3 punti fortuna, per curarci di 3 punti ferita. Ovviamente il primo turno non lo facciamo perché abbiamo tutta la vita. Ed è un'azione opzionale questa. La seconda azione che dobbiamo fare, se è il caso, è determinare se la nostra velocità è superiore alla nostra vita. Se la nostra velocità supera la barra della vita, dobbiamo riabbassarla fino alla nostra vita perché stiamo andando troppo veloci e non possiamo permettercelo. Questo può essere successo nel turno precedente, ma poi durante il turno di qualcun altro magari siamo stati feriti e quindi questa statistica si è sbilanciata. Se è sbilanciata, all'inizio del nostro turno può esserci curati eventualmente, dobbiamo rimetterla in ordine, ma ovviamente se siamo curati e abbiamo fatto in modo che curandoci siamo pari a quella statistica, non dobbiamo riabbassarci. Quindi è per questo che possiamo curarci prima di fare questa cosa. Guardate queste due opzioni, si fa il vero turno di gioco, si determina quanto stiamo andando veloci, a seconda di quanto stiamo andando veloci attualmente tiriamo un certo numero di dadi. I dadi hanno diverse facce che possono essere più o meno due cavalli e una ferita, oppure un punto fortuna, oppure curva, oppure lancia. Andiamo a analizzare ogni faccia del dado. Allora, la faccia con il simbolo della moneta vuol dire un punto fortuna. Per ognuna di queste facce noi guadagniamo un punto fortuna e andiamo avanti nella tabella che può tenerne fino a 6. Come ho già spiegato in precedenza, 3 punti fortuna possono essere spesi all'inizio del turno per curarci di 3. Inoltre, noi possiamo spendere 2 punti fortuna in questa fase per rilanciare i dadi, o rilanciare tutti i dadi che vogliamo, oppure per girare un dado nella faccia che vogliamo. Questo è utile perché noi, quando lanciamo i dadi, abbiamo la possibilità di rilanciare solo una volta quanti ne vogliamo e dopo dobbiamo ottenere quello che è uscito. Spendendo 2 punti fortuna possiamo fare un rilancio di massa oppure girare un dado nella faccia che vogliamo. Quindi, la faccia con la testa della moneta ci dà dei punti fortuna. La curva ci permette di curvare di una casella adiacente durante il movimento. Tuttavia, se noi curviamo in quel movimento, per ogni curva che facciamo, la nostra velocità diminuisce di 1. Poi abbiamo la lancia. La lancia può essere utilizzata in due modi differenti. Può essere usata come trappola o proprio come lancia vera e propria. Deve essere usata sempre dopo che abbiamo mosso la nostra biga, dopo vedremo come si muoverà. E a finito il movimento, determiniamo se usarla come lancia o trappola. Se davanti a noi o dietro di noi, a distanza massimo 2 caselle, abbiamo un'altra biga, possiamo lanciare la lancia e quindi fare subito una ferita a quel carro per ogni faccia lancia che abbiamo. Altrimenti, se vogliamo, possiamo lasciare in una delle caselle su cui siamo passati una trappola. e appena una biga ci passa sopra si fa una ferita e questa viene cavata dal gioco. La trappola, si intende. Poi abbiamo detto i più e il meno. Se ti esce una faccia col più o meno col simbolo del cavallo, vuol dire che tu puoi aumentare o abbassare di uno la tua velocità per ogni simbolo, quel simbolo di quel dado. Oppure abbiamo due cavalli e una ferita. Subisci una ferita e sei obbligato ad avanzare di due nel movimento. Quindi facciamo caso, io posso aver tirato tre facce di quel tipo, perdo tre ferite ma aumento di 6 il mio movimento. A inizio partita è possibile perché vado a 10 di vita e da 5 passo a 11, che ancora rientra nella tabella di quei punti ferita. Il problema è che andare veloci può essere rischioso. Scelti i dadi, o comunque avendo scoperto quali li dobbiamo tenerci nel caso non abbiamo più modo di rilanciare perché non abbiamo punti fortuna, si passa al movimento. Allora, il gioco si vince quando una biga passa il traguardo due volte per prima. Il problema è che le curve del gioco sono di tre tipologie. Le curve interne, che sono quelle con meno caselle, a metà curva hanno segnato 3. La curva media ha segnato 5, la curva superiore ha segnato 7. Se io durante il movimento oltrepasso la curva 3, per ogni movimento eccessivo al numero 3 che io ho fatto passandoci oltre, mi becco una ferita. Quindi se io sto andando a velocità 10 e passo oltre la curva numero 3, mi faccio 7 ferite. Perché è una curva pericolosissima. Mentre se stavo passando nella curva più esterna, me ne faccio solo 3 perché lì il limite era 7. Inoltre, se nel mio movimento io vado a scontrarmi con un altro carro, io subisco due ferite di tamponamento, e anche lui subisce due ferite. Se io ho del movimento aggiuntivo, lo oltrepasso, altrimenti rimango fermo dietro di lui. Questa è la fase di movimento. Eseguita la fase di movimento, si passa al giocatore dopo. L'ordine di turno è determinato dal giocatore che è più avanti nella pista. E ovviamente si fa il turno in senso da più indietro, poi il prossimo turno si ricomincia da quello che è arrivato più avanti. Attenzione, può succedere che un giocatore riesca a passare il traguardo. Però appena quel giocatore passa il traguardo, tutti gli altri hanno quel turno a disposizione per passarlo anche loro e arrivare più lontano di lui. Eventualmente potrebbero ucciderlo anche lanciandogli delle lance, quindi non è mai detta l'ultima parola. Questo è il gioco base. Ho giocato anche la versione alternativa che è molto più tosta. La versione alternativa bisogna girare la plancia, che è esattamente uguale. L'unica differenza è che alcune tessere della plancia hanno delle macerie. Se una biga finisce sulla baceria è distrutta completamente e il giocatore è eliminato dalla partita. Nella partita base per essere eliminati bisogna arrivare a 0 di vita. L'altra differenza, possiamo giocare usando le statistiche diverse. Nel gioco base tutti hanno le stesse statistiche iniziali. Nel gioco diverso, a seconda del colore che hai scelto, la biga ha statistiche completamente diverse. Vi faccio un esempio, io ero giocatore viola, avevo solo 3 punti fortuna e partivo con 0. Quindi non avevo mai modo di curarmi praticamente, però avevo tipo 14 di vita e un massimo di 14 di movimento. Il problema è che non curandoti dopo tu non riuscirai mai più ad andare veloce, mentre ci sono alcune come la Biga Verde che hanno tipo 9 punti fortuna, però vanno a 8 massimo di velocità e 10 di vita. Quindi sono molto differenti. E ho trovato che io questa versione l'ho giocata con la mappa con le macerie. Giocandola con la mappa con le macerie è molto difficile per certe bighe. Probabilmente giocandola con la mappa base e i poteri diversi, il gioco è molto più particolare. Tuttavia è molto divertente. Non è scontato, perché in entrambe le partite non ha vinto chi ha iniziato per primo e secondo, di solito ha vinto il terzo o quello che ha partito per ultimo dal primo giro. Anche perché molti giocatori muoiono durante la pista. Un gioco che dura 30 minuti, carino, ed è molto economico. L'unico difetto che si può trovare è la qualità della componentistica. Le schede dei giocatori sono fatte di un materiale niente di speciale, anche le frecce sono un po' scomode da utilizzare per cambiare le statistiche, vanno sempre staccate e riattaccate, perché sennò rischi di rovinare la scheda abbassandole e alzandole. E non sono molto utili i token delfino per far che basta che tu inizi con il token con un delfino per far dire sono al primo giro, appena superi il primo giro lo giri ai due delfini per far capire che sei al secondo giro, ma non penso che sia così poi utile tanto. Si capisce se è il secondo o il primo, se te lo ricordi. Ma a parte questo è un gioco molto carino. Dura poco, si rigioca volentieri, secondo il mio parere. E dato che Ave Caesar ancora non è stato ristampato, può essere una buona alternativa per i fan. Già, chissà quando lo ristamperanno. Tra l'altro, l'edizione della Pegasus Spiel di Zario Trace contiene 5 lingue diverse, e quindi tra cui l'italiano. Mm-hmm. E costa solo una ventina di euro, quindi direi che è fattibilissimo. Sì, sì, sì, per il suo prezzo è un gioco molto buono, considerando che è un prezzo che di solito hanno i giochi di carte, questo. Tra l'altro ho letto che qualcuno l'ha definito King of Tokyo The Racing Game, per le meccaniche. Beh sì, per questa cosa dei dadi. Ok. E questo era Chariot Race, novità della Pegasus Spiel. Ok. Direi che anche per oggi abbiamo finito, anche perché è un'ora che siamo qui. E siamo pronti ai soliti avvisi e saluti finali. Allora, oltre a tutti i venerdì sera dalle 21 presso la nostra sede, il Bar President di Forlì, dove c'è la nostra serata associativa dalle 9 fino all'1 più o meno, si gioca a giochi da tavolo tutta la notte e si conosce nuova gente, si sta in compagnia. Se volete partecipare programmando, potete andare sulla nostra pagina Facebook Area Games ACSD per segnarvi agli eventi o ai tavoli già proposti, oppure potete presentarvi la sera stessa. Nessuno da noi rimane senza giocare. Oltre alla serata associativa, il 23 avremo l'asta Games, ovvero l'asta di Natale, la prima edizione per la nostra associazione, in cui durante la serata associativa ci sarà quest'asta in cui potrete vendere o comprare giochi da tavola o materiale affino. E l'unica regola è che i venditori alla fine terranno il prezzo intero, cioè il guadagno intero del loro lotto, tranne un euro. Per ogni lotto venduto la situazione terrà un euro. Poi il 6 gennaio avremo l'autore Daniele Tascini presso la nostra associazione, verrà a trovarci, autore di Zorkin, Marco Polo, Shipland, Council of Four, insomma un autore famoso e pluripremiato soprattutto per i suoi giochi. Zorkin, tra i suoi giochi ho provato solo Zorkin ed è bellissimo, mi piace molto. E poi l'altro evento che abbiamo in programma a gennaio è a Mercato Saraceno, se non sbaglio è il 4, e la nuova edizione, sì il 4 esatto, di no, mi sono sbagliato invece, l'8, scusate, l'8 gennaio, la nuova edizione di A che gioco giochiamo, l'evento che si tiene nelle scuole elementari di Mercato Saraceno, in cui sarà una nostra tipica area demo, in cui avremo una decina, se non 15 dimostratori disponibili a spiegare e a far giocare tutte le famiglie. E questi sono i nostri eventi del periodo di Natale. Nel prossimo episodio faremo anche un riassunto del torneo di Smash Up che si terrà, si è già tenuto quando questa puntata andrà in onda. Sì, certamente, ma comunque penso che ci sarà qualche piccolo aggiornamento sulla pagina Facebook, adesso vediamo. Qualche aneddoto. Vediamo come andrà a finire, sì. Va bene, ok. Direi che per questo episodio siamo arrivati, possiamo concludere qui. Salutiamo tutti gli spettatori di RadioBigWorld.com. Commentate sulla pagina del podcast, condividete il podcast, aumentate il numero dei nostri ascoltatori, più siamo meglio è. Quindi o vi sdoppiate per mitosi o iniziate a divulgare. E per il resto ci salutiamo qui. Ciao. Ciao a tutti e buon Natale tra 2 settimane e 2 giorni.